quel passato di quando ero un bagnone, eh. E ci si riscorda di dietro. Siamo, il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Timido bambino vestito da figurino, orgoglio di famiglia, vieni qua piccolino. Dicevano i parenti tutti stretti e contenti. Il bimbo cresce in fretta, primi passi ha messo già i primi denti. Ora va a scuola che è mostro di bravura, ottimo rendimento, non vede roba spazzatura. Prova ripugno per quei tipi sbalestrati, ma il suo fuoco si accendeva. Per lui i tempi so cambiati. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Gli anni del liceo, tappo fondamentale. Stanco quel bambino, ora voglia di cambiare. E lo studio può aspettare, ora pensiamo a scappare. Conti prof, quiz al lobo, stop to war, in the war. Scioperamo compagni, si gridava squarciagola. Ma il motivo qual è? Usciamo a scuola, bella ciao si intonava. E la lessa si passava. Quel bambino una volta tutto questo mondo odiava. Ora il primo grande amore prende il sopravvento. Quel ragazzo pazzo calma il suo proprio portamento. Lui per l'amore è disposto proprio a tutto cambiamento radicale. Il suo stile viene distrutto. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo è volato, ora vi parla il ribellino. Ero proprio sì, quel divino bambino. Nel bene e nel male tante scelte ho affrontato, ma sono sempre soddisfatto per quello che mi hanno dato, per quello che ho coltivato negli anni. Ora posso ritenermi uno che ama la vita, uno che non la spreca e prega finché vada tutto sulla retta via. Amo lo stile mio, original terror rapper, mandare dal messia. Amo le belle carote, mai e mai scelte pericolose. Vivo tutto con calma e mi godo la giornata fino alla nanna, yeah! Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi che affrontano la vita senza mai ripensamenti. Tanti cambiamenti, resteremo sempre dei vincenti. Il tempo passa ma alla fine siamo sempre noi. Nel bene e nel male siamo piccoli eroi.